Buongiorno. Grazie, buongiorno. Bentornati alle lezioni di jazz. Quest'anno il ciclo sarà un po' più corto, faremo 7 incontri invece che i consueti 10 che termineranno alla fine di aprile. Questo spiega anche la stranezza, diciamo, di questo incontro, che era stato pensato per il novembre 2016, diciamo agli sgoccioli delle celebrazioni dei 400 anni della morte di William Shakespeare. E la mia idea era stata: prima che finisca il 2016 facciamo una cosa su Shakespeare e il jazz. Poi ci sono stati tutta una serie di problemi, rinvii, appunto legati a fattori, diciamo, che non dipendono da noi, però ho pensato che la musica da far ascoltare oggi è talmente bella, l'occasione è talmente preziosa, che anche se siamo a 401 anni dalla morte di William Shakespeare, chi se ne importa, insomma, diciamoci la verità. Dunque, Ellington canta Shakespeare. Magari qualcuno di voi già conosce questo disco del 1957, che è uno dei grandi capolavori del jazz di tutti i tempi, direi, ed è anche l'occasione particolare per riflettere sul rapporto tra musica e letteratura, su come le due arti possano influenzarsi, condizionarsi, dialogare. Ellington in particolare, nel 1956, quando gli fu commissionata la suite, tra poco vedremo come accadde, stava vivendo un momento particolare della sua carriera, perché fino al 1955, fino ai primi mesi del 1956, Ellington si trovava tutto sommato ancora in una situazione piuttosto difficile, che si era andata creando agli inizi degli anni 50, circa 5-6 anni prima, perché c'erano state tutta una serie di circostanze negative. La prima, di tipo strutturale generale, è che nel dopoguerra, dal 45 in poi, il pubblico per le big band jazz era andato drasticamente diminuito. Non c'era più interesse per quel genere, i gusti erano cambiati e una dopo l'altra le più importanti big band degli Stati Uniti, penso a quella di Benny Goodman, quella di Glenn Miller, che però morì durante la guerra, quella di Artie Shaw, eccetera, Count Basie, cominciarono a chiudere una dopo l'altra. Immaginate la portata della crisi: l'orchestra di Count Basie o quella di Benny Goodman, il re dello swing, che non ha più pubblico, non ce la fa più proprio a pagare i musicisti e quindi si scioglie. Molti di questi musicisti andavano in giro con piccoli gruppi di 6, 7, 5 elementi, proprio perché non c'era un pubblico per sostenere un'impresa invece più grande e complessa come una big band da 13, 15, 16 elementi. Uno dei pochi che strinse i denti e resistette a questa crisi fu proprio Duke Ellington, ma subì Ellington i contraccolpi della crisi su un altro versante, perché alcuni dei musicisti più importanti, come per esempio Johnny Hodges, che vediamo qui in primo piano in questa foto, lo abbandonò per fare una carriera propria da solista. Un'altra figura fondamentale che lo abbandonò intorno ai primi anni 50, ma per motivi diversi, fu il suo braccio destro, l'arrangiatore Billy Strayhorn, per un dissidio sostanziale, reale, sui problemi di compenso e riconoscimento dei diritti, perché molto spesso Ellington si attribuiva la paternità di pezzi scritti da Strayhorn e intascava anche i diritti. Dopo una serie di alterchi, a un certo punto Strayhorn decide di lasciare l'orchestra. Quindi nei primi anni 50, benché Ellington cercasse di tenere botta, diciamo così, a questi colpi, con l'aggiunta di nuovi solisti, scrivendo lui gli arrangiamenti, eccetera, la situazione comunque non era florida né rosea. Per fortuna, tra il 1955 e il 56 le cose cambiano. In particolare, Billy Strayhorn torna all'ovile, decide di stabilire un accordo con Ellington molto più stringente, tra cui la suite che stiamo per ascoltare è anche un frutto, cioè il fatto che la musica scritta da Strayhorn deve essergli esplicitamente attribuita, e viene fatto un accordo anche sulle royalties, e alcuni dei solisti che avevano lasciato l'orchestra, insoddisfatti dalla loro carriera solistica, tornano anch'essi nella formazione. In particolare Johnny Hodges, nel 56 torna finalmente dentro l'orchestra. Poi succede qualcosa di ancora più interessante. Nell'estate del 1956, dopo che Ellington aveva tra l'altro già registrato delle cose molto interessanti, nell'estate del 56 l'orchestra va a fare un concerto al Festival di Newport. E questo concerto, che poi fu registrato e di cui oggi esiste il disco, doveva un po' segnare una specie di rilancio dell'orchestra di Ellington nell'intenzione dei produttori, e così fu. In particolare, durante quel pomeriggio l'orchestra suonò una incredibile esecuzione di Crescendo e Diminuendo in Blu, in cui Paul Gonsalves, il primo sassofonista da sinistra, il terzo da destra che vedete, si alzò, fece un incredibile assolo di 27 ritornelli sul blues, una donna cominciò a ballare come un'invasata sotto il palco, c'erano i fotografi e in breve fu creato un vero e proprio caso giornalistico del ritorno in grande stile di Ellington sulla scena del jazz. Quindi siamo nel luglio del 1956 e l'orchestra di Ellington praticamente è finalmente, dopo tanti anni, sulle prime pagine di tutti i giornali. Forse sarà anche in conseguenza di questo aspetto che l'orchestra di lì a poco viene invitata al Festival Shakespeareano di Stratford, in Canada, non quello inglese, con una cittadina omonima, una cittadina del Bardo, in Ontario. E il festival esiste ancora oggi, questa è una foto recente che ci mostra l'arena nella quale l'orchestra di Ellington, che non abbiamo foto di quando suonò, ma sappiamo che l'orchestra di Ellington era posizionata lì al centro con tutto il pubblico intorno, e fecero due concerti in due giorni non consecutivi, come vedremo fra breve, a metà luglio, e i concerti ebbero un tale successo che i direttori del festival chiesero ad Ellington di scrivere una suite ellingtoniana da presentarsi al festival dell'anno successivo. Gli commissionarono un'opera. Allora, andiamo a vedere, prima di parlare dell'opera, vorrei ricordarvi anche qualcosa sul rapporto tra Duke Ellington e Billy Strayhorn. In una delle scorse serie di lezioni di jazz, mi pare proprio l'anno scorso, abbiamo dedicato un'intera lezione a Billy Strayhorn. Adesso io interrogo, vediamo, lei per esempio. Venga. Abbiamo dedicato un'intera lezione a Billy Strayhorn raccontando chi era Billy Strayhorn. Qui adesso sarò estremamente sintetico per chi era assente a quella lezione senza giustificazione. Billy Strayhorn era ovviamente quell'individuo a destra, entrato nell'orchestra nel 1939, diciamo nello staff dell'orchestra, ne uscirà purtroppo, cioè non ne uscirà, morirà prematuramente nel 1967, ma diventa il braccio destro di Duke Ellington, e per molto tempo si è creduta una specie di mito secondo cui la intesa artistica fra i due era così profonda che la scrittura di Ellington e di Strayhorn sembrava confondersi. Non si capisce mai dove comincia la mano dove finisce la mano di uno e comincia la mano di un altro. Questa leggenda negli ultimi anni è stata smontata nel momento in cui si sono studiati i manoscritti di Ellington e di Strayhorn, e si è notato che lo stile, una volta attribuiti i pezzi all'uno all'altro, lo stile dei due musicisti è molto diverso, e tra l'altro oggi ne avremo anche una palpabile prova. Fatto sta che Ellington e Strayhorn decisero di lavorare insieme, appunto Strayhorn era da poco rientrato nell'orchestra, lavorare insieme a questa suite ellingtoniana, shakespeariana, scusate. I due conoscevano molto bene l'opera di Shakespeare. Addirittura Billy Strayhorn era così dentro la letteratura shakespeariana che dentro l'orchestra lo chiamavano Shakespeare, cioè citava a memoria i versi delle tragedie e delle commedie shakespeariane. Era veramente un cultore del grande drammaturgo. Ellington non era da meno, magari meno esibita questa cosa, ma nella sua biblioteca è stata ritrovata l'opera Omnia di Shakespeare, con continue sottolineature e annotazioni da parte di Ellington. D'altra parte, I due, nel momento in cui ricevettero la commissione da parte del festival di Stratford, Ontario, si misero subito al lavoro. In particolare, siccome viaggiavano tantissimo, misero in valigia praticamente l'opera omnia di Shakespeare e sui treni, sugli aerei, in macchina, negli hotel, cominciarono a rileggersi tutto, a studiare, a confrontarsi e, a seconda di dove capitavano nei viaggi, anche a contattare e dialogare con esperti del mondo shakespeariano per ricavarne degli stimoli. In realtà questo lavoro fu un lavoro molto frammentario perché nel frattempo, dopo l'estate del 56, Ellington aveva moltissimi impegni con l'orchestra, compresi dischi, lavori molto complessi, come per esempio Drum is a Woman, che era una specie di cantata per voci soliste, coro e big band dedicata alla storia del jazz, che poi divenne uno spettacolo televisivo per la CBS con scenografie e ballerini. Quindi un lavoro molto impegnativo. Di fatto, il lavoro per la suite fu fatto poi alla fine, come vedremo, solamente in 3 settimane, il lavoro di composizione. Per chiarire meglio questo aspetto, guardiamo insieme una cronologia di quello che è accaduto in questi giorni. Allora, il 18 e il 20 luglio del 1956 l'orchestra suona allo Stratford Ontario Festival e gli viene commissionata la suite. Ma loro non ci mettono mano alla suite per il momento. Noi sappiamo però che il 7 agosto del 1956 l'orchestra registra un pezzo di Billy Strayhorn che si chiama Lately, che vuol dire più tardi, che però successivamente verrà inserita nella suite. Cioè questo è un pezzo qualsiasi che poi, in mancanza di tempo, decidono di mettere dentro la suite all'ultimo momento. Ma non era stata programmata per la suite. Agosto del 1956. Il 15 aprile del 57 cominciano a registrare, quindi molto tempo dopo, 4 brani della suite. Una settimana dopo registrano altri 3 brani per il disco e poi finalmente il 28 aprile era stata la data stabilita per la prima dal vivo della suite, perché attenzione, la suite fu commissionata dal Festival canadese, ma il Festival canadese si teneva d'estate. Quindi Ellington decise di fare una prima a New York, alla Town Hall. Solo che quando arrivarono al 28 aprile, la suite non era finita. Ellington non aveva ancora scritto l'ultimo pezzo. Tant'è che l'ultimo pezzo che vedremo si chiama Circle of Fours, fu sostituito da un pezzo che si chiamava Cop Out, che loro avevano già in repertorio. Il bello è che il pubblico della Town Hall non se ne accorse, pensava che quel pezzo facesse parte della suite shakespeariana. Questo è interessante perché Ellington è un musicista che, un po' come Rossini, si è sempre ridotto all'ultimo momento. Anzi, aveva bisogno di questa pressione dell'ultimo momento, però con un problema che analizzeremo dopo. Ellington detestava finire qualsiasi cosa. Cioè, per Ellington, finire qualcosa, completarla, era una cosa inconcepibile. Tutto doveva essere lasciato aperto. Non a caso Ellington era una persona che, voglio dire, un aspetto che riguarda tutti noi, ma per Ellington era quasi inconcepibile. No, non concepiva l'idea della morte stessa, cioè della fine ultima, perché non, finire per lui era un concetto inconcepibile. Quindi spesso, ad esempio, si è visto che molti pezzi estesi di Ellington, scritti sotto pressione del poco tempo a disposizione, hanno dei finali scadenti. Spesso la cosa più scadente della musica di Ellington è il finale, perché Ellington arriva a scriverlo all'ultimo momento senza alcuna convinzione. E così è successo anche il 28 aprile. Nel frattempo però avevano già registrato i brani per il disco programmato e il 5 maggio, cioè pochi giorni dopo, una settimana dopo, finalmente registrano i 5 brani mancanti e Ellington ha il tempo di scrivere l'ultimo pezzo, Circle of Fours, che quindi viene registrato una settimana dopo. A settembre, finalmente, vanno in Ontario e presentano la suite al pubblico del festival. Ora andiamo nel cuore di questo disco, perché ci sono appunto diverse esecuzioni dal vivo, ma noi lavoreremo, ascolteremo il disco. Questa era la copertina originale, con le note di copertina che iniziavano già, guardate, dalla copertina. Il disco uscì in mono, non in stereo, l'LP. In realtà registrarono sia delle versioni stereo, cioè sia con una macchina stereo, sia con una macchina mono. Ma poi, per un motivo che vi dirò, uscì la versione in mono. La versione in stereo è uscita in CD solo di recente, ma con un problema. Allora, la suite consiste di 12 brani. Questi 12 brani sono distribuiti in questo modo. Ci sono 7 dediche ad altrettanti personaggi delle commedie o tragedie di Shakespeare. Poi ci sono 4 sonetti, e vedremo tra poco com'è che Ellington traduce il sonetto shakespeariano in musica. Ellington e Strayhorn. E poi c'è un brano che non è legato né a un personaggio né, diciamo, a una struttura, ma è appunto l'ultimo, una dedica a tutta l'opera di Shakespeare. Noi ora ripercorreremo la suite seguendo la scansione delle tracce, perché il modo in cui, come dire, i brani si susseguono uno dopo l'altro formano una specie di piccola drammaturgia shakespeariana. La prima traccia che ascoltiamo, che incontriamo quando andiamo ad ascoltare il disco, si chiama Such Sweet Thunder, che è il titolo della suite. Aggiungo una cosa, scusate, non dimenticavo di dire, che sul disco c'è scritto musiche di Duke Ellington e Billy Strayhorn. In realtà oggi noi siamo in grado di distinguere esattamente quali brani ha scritto Ellington e quali brani ha scritto Strayhorn. Va detto che i due non hanno quasi mai scritto niente insieme. Ognuno ha scritto sempre i suoi pezzi, l'uno separato dall'altro. Such Sweet Thunder è un rarissimo esempio di collaborazione a quattro mani fra i due. In realtà il pezzo è tutto di Ellington, ma c'è un piccolo passaggio di 4 battute che sul manoscritto invece è di pugno di Strayhorn. Cos'è Such Sweet Thunder? Un sì dolce tuono. Questo ossimoro viene dal sogno di una notte di mezz'estate, quando, mi pare nel terzo atto, Ippolita dice, lei racconta di essere stata nei boschi dell'antica Grecia e di aver sentito i cani di Sparta che ululano correndo dentro i boschi, e afferma che questo ululato, questo abbaiare era così strano, così suggestivo, e dice: non ho mai udito una tale discordanza musicale, un così dolce tuono. Ecco, il titolo della suite e il titolo del brano viene quindi dal sogno di una notte di mezz'estate. Evidentemente è uno di tanti riferimenti alla musica, al suono che ci sono in Shakespeare. In realtà il titolo di lavoro del pezzo era Clio. Spesso Ellington usava dei codici di 4 lettere, spesso abbreviando un'espressione, in questo caso Cleopatra. Quindi forse inizialmente nella sua testa questo pezzo doveva rappresentare o Cleopatra o comunque la tragedia Antonio e Cleopatra. Invece, nelle note di copertina, Ellington dice che questo pezzo è dedicato ad Otello. Lo so, si sta un po' complicando la cosa. È una lezione, insomma, dovete... Poi non so se avete riletto tutto Shakespeare prima di venire a lezione. Allora, nell'Otello, a un certo punto, come sapete, Otello suggestiona, seduce Desdemona con la sua forza retorica, raccontando di quando lui era stato schiavo, di quando lui era stato catturato e riportato in Africa, e racconta di essere stato in una giungla dove c'erano dei cannibali e c'erano addirittura degli esseri che avevano la testa al di sotto delle loro spalle, esseri mostruosi. Questa potenza narrativa del monologo di Otello, che seduce, annichilisce di passione Desdemona, è restituita nel brano che stiamo per ascoltare. Notate che c'è una certa ambiguità in tutto questo, cioè da un lato il pezzo viene pensato per Cleopatra e poi invece viene dedicato a Otello. Ci torneremo su questo, su come le parole possano condizionare il nostro ascolto. L'ultimo dettaglio che voglio farvi osservare è che in effetti il pezzo ha un carattere estremamente possente, una specie di abanera di ritmo cubano molto potente in cui tutta l'orchestra suona all'unisono. Sentirete la tromba di Rain Hands, ci sono anche degli effetti wah-wah che evidentemente nella nostra immaginazione evocano quella giungla, quello stile giungla che era tipico di Ellington fino dagli anni 20 e che ben si adatta alla magnificenza, al mistero del racconto di Otello. Andiamo ad ascoltare Such Sweet Thunder, che è sostanzialmente un blues con questo carattere giungla. Questa è la parte scritta da Streo. Poi torniamo a lui. Pezzo appunto veramente possente, potente, con questo blues che in realtà è anche un ritmo cubano, con tutta l'orchestra all'unisono che suona queste parti, poi un'armonizzazione particolare del blues e questa misteriosa nota grave che suona Duke Ellington sospesa nel vuoto, molto enigmatica, che forse nella testa di Ellington serviva come ponte tra un brano e l'altro, perché è come dire una nota che apre anziché chiudere, sembra voler indicare una prosecuzione, non una conclusione. Troveremo spesso nel corso della suite questi finali un po' strani. Ricordatevi sempre che Ellington non ama il finale, la fine. Il secondo brano ci porta in una dimensione veramente singolare. Ora, abbiamo detto che ci sono diversi sonetti. Alla fine degli anni 90, uno studioso statunitense, Bill Dobbins, un didatta, ha scoperto che i sonetti che ci sono dentro Such Sweet Thunder sono la traduzione musicale esatta dei sonetti shakespeariani, non di un sonetto specifico, ma della struttura di un sonetto shakespeariano. Come è fatto il sonetto shakespeariano? Io sono un'autorità assoluta sull'argomento, quindi vi potete fidare. Il sonetto shakespeariano è fatto di 14 versi in ritmo di pentametro giambico, cioè sono 10 sillabe, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, due coppie di note, la prima accentata e la seconda no. I 14 versi sono divisi in tre quartine, vedete sotto le rime A, B, A, B, poi C, D, C, D, E, F, E, F, e poi c'è un couplet finale, cioè una coppia di versi in rima che chiudono il sonetto, G, G. Le lettere indicano, come si fa in letteratura, indicano le sillabe che rimano. Quindi noi abbiamo questi tre, sono appunto, dicevo, 14 versi, e all'interno di ogni verso avete 10 sillabe. Ora, la cosa fantastica è che Ellington, scrivendo i sonetti musicali, sapete cosa fa? Scrive 14 frasi musicali, cercando anche di avere le rime in alcuni punti, e ogni frase musicale è composta da 10 note. Quindi lui, evidentemente, quando ha scritto questi pezzi, aveva proprio sotto gli occhi la griglia di sillabe e il numero di frasi, e ha riempito questa griglia con la sua ispirazione melodica e armonica, e poi ha orchestrato la melodia e la parte armonica per la sua big band. Quindi tutta la struttura dei quattro sonetti che ci sono dentro la suite funziona in questo modo. Ora però i sonetti, come sapete, hanno soggetti vari e soprattutto di carattere amoroso. Ellington invece non si riferisce al contenuto dei sonetti, ne prende solo la forma e dedica i sonetti invece a personaggi che vengono ad esempio dalle tragedie. Faccio il primo esempio. Il brano numero 2 della suite si chiama Sonetto per Cesare. Quindi qui siamo dalle parti del Giulio Cesare. Quindi la fonte è il Giulio Cesare. La struttura del pezzo però, come vedremo, è appunto un sonetto. Personaggio Giulio Cesare. Giulio Cesare è interpretato qui in modo malinconico, sentirete, dal clarinetto. E infatti il carattere del pezzo è, diciamo, solenne al tempo stesso e malinconico. C'è un rullante che fa una specie di rullata marziale, come se fosse una marcia funebre, forse, molto suggestiva. La voce a cui Ellington affida questo momento funebre di Giulio Cesare è il clarinettista Jimmy Hamilton. Ora, per il momento lo ascoltiamo e non scendiamo nel dettaglio della struttura del sonetto. Fidatevi che si tratta di 14 frasi di 10 note ciascuna. Poi vedremo meglio il dettaglio. Thank you. pezzo impressionante perché da un lato sfugge a tutte le regole della forma tradizionale del jazz, che viene superata applicando alla scrittura, perché il pezzo non ha improvvisazione, non c'è una sola nota improvvisata, applica alla scrittura la forma letteraria che viene trasportata nella composizione musicale. Il secondo aspetto è il carattere proprio espressivo del pezzo, così angoloso, misterioso, quasi atonale, che non ha niente, anche ritmico, che non ha niente dello swing del jazz. Questo è un pezzo che non può essere classificato jazz nel senso tradizionale. Ricordatevi che siamo nel 1957. Il jazz dominante in quegli anni è l'hard bop di Art Blakey, di Horace Silver, di Miles Davis, è l'anno in cui esplode il talento di John Coltrane. Qui siamo in una dimensione completamente diversa, di grandissima intensità e al tempo stesso lontana da qualsiasi cliché tradizionale del jazz. Questa era la struttura del sonetto. Io però voglio farvi vedere qualcosa di più, entrare meglio in questo discorso del sonetto, andando sul terzo brano della suite. Dopo il sonetto per Cesare c'è un altro sonetto, dal titolo misterioso, sonetto to Hank Sink. Hank Sink. Chi è Hank Sink? È un modo buffo, umoristico di Ellington di chiamare amichevolmente Enrico V, che avendo invaso la Francia, Sink, capito? Cioè, Hank è amichevole, invece di Enrico. E Sink, per fargli fare, come dire, dare, ricordare il suo ruolo nella storia. L'Enrico V è la tragedia storica a cui fa riferimento Ellington, il personaggio è quello di Enrico V, lo strumento che impersona Enrico V in questo sonetto è il trombone, e sentirete che Ellington scrive delle lunghe frasi che salgono e scendono con incredibile flessibilità, perché lo dice Ellington stesso nelle note di copertina. Quello che lui cerca di catturare di Enrico V è la sua capacità politica e militare di adattarsi e di essere flessibile alle circostanze più diverse, che è quello che fa la forza storica e letteraria del personaggio raccontato da Shakespeare. Per interpretare, come dire, il genio militare e politico di Enrico V, Ellington si affida al trombone di Britt Woodman, un trombonista che forse pochi conoscono, ma formidabile, un grande virtuoso californiano che fu amico tra l'altro d'infanzia, ma poi collaborò anche più tardi con Charles Mingus, a cui era profondamente legato. Ascoltiamo, ricordando che si tratta di 14 frasi e ogni frase di 10 note, il sonetto a Enrico V, cioè amichevolmente Hank Sink. Queste frasi che sentirete salgono. Ecco. Ha detto: prendete un qualsiasi dei sonetti di Ellington, leggete un sonetto qualsiasi di Shakespeare e vedrete che qualsiasi sonetto di Shakespeare si adatta alle frasi scritte da Ellington. Questo pezzo, avete sentito, ha un carattere totalmente opposto rispetto al sonetto per Giulio Cesare. Questo vi mostra come Ellington fosse in grado di immaginarsi le situazioni opposte, più diverse, dentro lo stesso stampo formale. Che questi pezzi si adattassero a un sonetto, in realtà è vero che Bill Dobbins l'ha scoperto nel 99, ma musicalmente c'era arrivata prima una grande cantante inglese, Cleo Lane, che nel 1964 aveva, con gli arrangiamenti del sassofonista Johnny Dankworth, aveva fatto un disco dedicato a Shakespeare, Shakespeare and All the Jazz. Sapete cosa fa lei? Prende il sonetto numero 40, Take All My Love, e lo canta sul pezzo di Ellington, sul sonetto To Hank Sank. Cioè prende la parte di trombone, la canta e ci mette il testo del sonetto 40 di Shakespeare. Buon divertimento. Take all my loves, my love, yeah, take them all. What hast thou then more than thou hast before? No love, my love, that thou mayst truly call. All love was thine before thou had this more. Then if for my love thou, my love, receivest, I cannot blame thee for my love thou usest. But yet be blamed if thou thyself deceivest by willful taste of what thyself refusest. I do forgive thy robbery, gentle thief, although thou still knew my poverty. And yet love knows it is a greater grief to bear love's wrong than Nathan injury. Lascivious grace in whom all ill well shows. Kill me with spites, yet we must not be fools. Formidabile, merita un applauso la grande Cleo Lane, questa estensione veramente pazzesca. E insomma scopriamo anche che Shakespeare è stato un grande paroliere di jazz, veramente per questo anche, come dire, a merito di Shakespeare, che insomma, l'enormità del suo genio evidentemente si adatta anche a queste circostanze così singolari. A proposito di singolarità, come viene rappresentato il male? Perché il male, come sappiamo, è un tema centrale nell'opera di Shakespeare. Ci sono personaggi malvagi, memorabili, su tutti Lady Macbeth. In realtà Ellington è, come dire, non è in sintonia col tema tragico del male. Anzi, tenta di smontare tutto con una specie di saporita ironia che qualche volta diventa sarcasmo. Ma insomma, sentiamo come funziona Lady Mac. Ovviamente la fonte è il Macbeth, ovviamente il personaggio è Lady Macbeth. Più che uno strumento, Lady Macbeth qui è rappresentata da un certo tipo di scrittura orchestrale e poi anche da un solista in un registro femminile, che è il flicorno. Il flicorno, per chi non lo sapesse, si presenta come una tromba, ma in realtà appartiene alla famiglia dei corni perché ha un suono meno squillante della tromba, è un suono più pastoso, più ovattato, più vellutato. La cosa buffa è che Ellington, nelle note di copertina, qui e lì, offre degli agganci, dei commenti ai singoli brani, che spesso sono o enigmatici o, sì, diciamo enigmatici, un po' curiosi. Sapete cosa dice di Lady Macbeth? Dice: sospettiamo che ci fosse del ragtime in lei. È veramente una battuta tanto, tanto arguta quanto sciocca. come dire, era una che insomma amava danzare in un certo modo, cioè aveva una certa sincope dentro di sé. Questo è il modo in cui lui tende a sdrammatizzare il male di Lady Macbeth, che è comunque un'osservazione, se ci pensate, di una certa acutezza, perché, come dire, era animata da un certo spirito inafferrabile, ritmico, sincopato, che poi l'ha portata insomma a fare quello che ha fatto. Il solista, che ripeto non incarna esclusivamente Lady Macbeth, ma è il solista principale, e Clark Terry, una delle nuove acquisizioni formidabili, starà nell'orchestra per poco tempo purtroppo, questo grande solista che è scomparso ultra novantenne poco tempo fa, una delle nuove acquisizioni dell'orchestra, qui lo vediamo col flicorno. C'è una caratteristica del pezzo che colpevolmente non ho scritto nello schema, è che è un valzer. Cioè sì, è ancora più arguta questa cosa. Ci sarà stato anche del ragtime in Lady Macbeth, ma Ellington, con una forse piccola dose di perfidia, rappresenta Lady Macbeth all'interno di un movimento di valzer, anche se un valzer molto particolare, lo sentirete, è un valzer che non decolla mai, ossessivo, fermo. Il male di Lady Macbeth è riassunto, sapete in cosa? Nel finale. Le ultime due note improvvisamente sono violente, potenti e dallo spirito profondamente negativo. Dopo lo svolazzo pianistico, l'orchestra si incarica di ricordarci chi era veramente Lady Macbeth. Avete sentito, io trovo, vi confesso che ascolto per la 127esima volta oggi Such Sweet Thunder con voi, e non finisco mai di stupirmi dell'ampiezza della ispirazione lintoniana, passando dal sonetto di Cesare a questo, per dire, è veramente un passo amplissimo, così come non mi stupisco di cogliere l'indipendenza di Ellington da qualsiasi cliché del jazz. Ellington pensa esclusivamente con la sua testa, non si appoggia ad una concezione preformata, convenzionale del jazz. E c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare, che magari approfondiremo nel corso dei prossimi ascolti. Ellington sì, individua un carattere per il personaggio di cui si sta occupando e quindi dà un certo tono al pezzo, ma poi al tempo stesso non è schiavo di quella cosa, segue anche una sua logica musicale. Pensate a quando Clark Terry fa il suo assolo, lascia quindi libero un solista di improvvisare, ma al tempo stesso nella nostra testa qualcosa di quello che fa Clark Terry è collegabile all'atmosfera e al pezzo dedicato a Lady Macbeth. Cioè ci sono le ragioni della descrizione letteraria e le ragioni dello sviluppo musicale, indipendentemente dalla sua ispirazione letteraria, che si equilibrano e si conciliano. E questa è un'operazione difficilissima. Il gusto per il calembour, per l'ambiguità, tipico di Ellington, si manifesta nel quinto brano, il terzo sonetto, Sonnet in Search of a Moor. E voi direte, ovvio, di nuovo Otello, sonetto in cerca di un moro. Ma in realtà le ispirazioni potrebbero essere diverse, perché da un lato c'è Otello, però in inglese moor vuol dire anche brughiera, dove ci sono le streghe con cui inizia il Macbeth, su questa brughiera dove ci sono, lo dice proprio Shakespeare, su una brughiera, un moor, ci sono le streghe. E poi c'è il modo in cui pronunciate questa cosa, sonetto in search of a moor, in francese sonetto in cerca dell'amore, amour, potete pronunciarlo anche in questo modo. Quindi non sappiamo bene qual è la fonte, potrebbero essere appunto Otello, le streghe oppure semplicemente l'amore, che come sapete è uno dei temi centrali di tutta la serie dei sonetti shakespeariani. Quello che è certo è che per aggiungere confusione e ambiguità Ellington attribuisce, cioè scrive tutta questa melodia, le famose 14 frasi, ognuna di 10 note, per un contrabbasso. Quindi con un'atmosfera misteriosa, accompagnata chissà dalle streghe, da tre clarinetti, tre strumenti, che creano un colore particolarmente scuro, acidulo direi, sullo sfondo di questo contrabbasso. Il carattere quindi è ombroso, pensoso, potrebbe essere la gelosia di Otello, potrebbe essere l'atmosfera cupa del Macbeth, potrebbe essere la ricerca di un amore, non lo sappiamo. Sappiamo solo che il protagonista del pezzo è il grande bassista Jimmy Wood, che fa una parte, ben inteso, anche qui, tutta completamente scritta, non c'è improvvisazione. Le 14 frasi di un sonetto. bozzetti geniali, questa... c'è quasi l'idea di uno schizzo, no? Come un accenno, una cosa fatta a carboncino, no? Provvisoria eppure centratissima. L'umorismo di Ellington, come la sua ispirazione musicale, non conosce confini, per cui arriva anche a scrivere un pezzo che si chiama I trasmettitori, The Telecaster, come la TV, cioè la radio, la televisione. Chi sono i trasmettitori? Lui spiega il titolo nelle note di copertina, perché in questo pezzo, The Telecasters, fa convogliare due diverse tragedie, Macbeth e Otello, perché entrambi contengono storie di qualcuno di Ellington che hanno qualcosa da dire. Quindi parlano, trasmettono, parlano. E chi sono? Sono le streghe e Iago. Due personaggi, cioè tre streghe e Iago, malvagi, che però hanno, come dire, usano la parola, trasmettono e attraverso la parola condizionano il destino degli altri. The Telecaster, vi ricordo, siamo nel 57, lui tra l'altro aveva appena fatto per la CBS, per la TV, A Drum is a Woman, quindi aveva preso contatto con lo strumento televisivo, e questa idea della trasmissione evidentemente lo aveva affascinato e ha trovato questo modo così umoristico di mettere insieme questi due personaggi. A livello musicale, manco a dirlo, le tre streghe sono rappresentate dai tre tromboni. Considerate un aspetto importante qui, perché Ellington fa convergere un aspetto musicale con la necessità descrittiva. Le orchestre jazz all'inizio avevano due tromboni, parlo degli anni, all'inizio uno negli anni 20, negli anni 30 e 40 due. Ellington fu il primo e per molto tempo l'unico musicista ad avere tre tromboni. Dove sta l'importanza? Sta nel fatto che se io per esempio tre trombe, come Benny Goodman, tre trombe e due tromboni, siccome gli accordi si fanno minimo con tre suoni, se io ho due tromboni, i tromboni non possono mai suonare da soli, perché non possono mai fare degli accordi completi. Non ho mai il senso di un'armonia completa. Devo sempre, sono come dire, ancillari, devono sempre accoppiarsi con le trombe. Invece Ellington, avendo tre tromboni, fu il primo negli anni 30 a utilizzare la sezione tromboni come uno strumento autonomo, un colore autonomo, che prima e per molto tempo anche dopo non fu utilizzato mai come tale, perché erano considerati strumenti secondari. Ellington ebbe questa idea. Poi le orchestre si allargarono negli anni 40 e cominciarono ad avere quattro tromboni. Oggi, per esempio, la Big Band Standard, come quella che ha avuto qui il Parco della Musica o come ce ne sono tante in giro per il mondo, hanno di regola quattro tromboni. L'orchestra di Ellington, dopo questa innovazione, conservò la struttura a tre tromboni. Quindi il suono di tre tromboni è il suono tipicamente ellingtoniano. Infatti a volte girano, per farvi capire, girano degli adattamenti, degli arrangiamenti di Ellington con quattro tromboni per adattarli al format standard di tutte le orchestre del mondo. È una cosa profondamente sbagliata, perché si tradisce il suono di Ellington. Quindi per lui questi tre tromboni hanno una loro identità ben precisa. E qui sono le streghe. Iago invece è il sax baritono, strumento grave. Ora, l'allusività della parola di Iago in particolare è manifestata dal fatto che non solo ci sono delle frasi aggressive dei tromboni, e quelle sono le streghe, ma Iago ha, ha delle frasi seguite da lunghe pause inesplicabili, da dei momenti di silenzio totale, che non si capisce perché stanno lì. Evidentemente sono, come dire, quelle allusioni ambigue che sono lo strumento principale della malvagità di Iago. Il solista al sax baritono, ovviamente il più grande baritonista, uno dei più grandi baritonisti di tutti i tempi, che è stato anche il padre dello strumento sax baritono, Harry Carney. A un certo punto sentirete che nel corso del pezzo i tromboni, che prima si sentono da soli, le streghe, accompagnano Iago. È come se le streghe e Iago andassero insieme. Bonifotto. Fanno il tema di Iago. Brani come questo, Ellington si dimostra un sottile drammaturgo, lui stesso. Lui prende i personaggi di Shakespeare come, divertendosi, li ricombina, le streghe e Iago, e crea una sua personalissima storia con quei personaggi. Sovrappone la sua idea drammatica, la sua idea di teatro musicale, astratto ovviamente perché non c'è una scena, non ci sono scenografie, non c'è una storia, ma evidentemente c'è una specie di piccola narrazione. Sovrappone la sua storia, idea di teatro musicale a quella di Shakespeare, tra l'altro lo sentite trattata con una mancanza di, come dire, di timore reverenziale assoluto, è come se parlasse da pari a pari con Shakespeare, non si mette nella posizione di servire Shakespeare, per lui Shakespeare è un pari con cui dialogare, un pari su che piano? Sul piano narrativo, perché è il momento di ricordare che Ellington da sempre è stato un compositore narrativo, descrittivo. Lo scopo di ogni composizione di Ellington è raccontare una storia. La composizione di Ellington, la forma dei pezzi di Ellington, l'alternanza di parti scritte e improvvisate, qua in realtà tutto scritto, è sempre funzionale all'idea di un racconto. Ora, per noi ascoltatori, a volte questo racconto è chiaro, a volte ce lo spiega Ellington nelle note di copertina o nelle presentazioni dal vivo dei pezzi, diceva, alludeva a delle cose. Altre volte questo racconto non ci è chiaro, altre volte ha una chiave cifrata, cioè ci sono degli elementi musicali che vanno interpretati, decodificati e diventano la chiave d'accesso per comprendere il senso del pezzo. Ma Ellington ragiona sempre, sempre, sempre in termini narrativi. Vi racconto un aneddoto. È stato ritrovato tra le carte di Ellington un foglio con l'intestazione di un albergo nel quale evidentemente lui stava, sul quale lui aveva scritto a penna una storia d'amore, un incontro fra un ragazzo e una ragazza, il loro rapporto, le difficoltà, poi insomma tutta la storia di questi ragazzi. Dopodiché, sopra le righe scritte aveva aggiunto delle indicazioni musicali, compresi il numero di battute, i ritornelli, la forma. Quindi lui era partito dal racconto e sopra ci aveva sovrapposto la forma musicale, un po' come fa con i sonetti di Shakespeare qui. Questo per darvi l'idea di quanto sia profondamente radicata la necessità narrativa nella musica di Ellington. Questa cosa evidentemente lui la condivideva anche con il suo amico e collaboratore Billy Strayhorn. Arriviamo al brano 7 e finalmente troviamo un pezzo scritto da Billy Strayhorn. La differenza con la scrittura ellingtoniana vi apparirà in maniera veramente palpabile. Innanzitutto, cos'è questo su e giù, che è il titolo del pezzo? Allora, la fonte è Il sogno di una notte di mezz'estate, atto 4, scena 1, quando i personaggi, come dire, sotto gli incantamenti di Puck, sperimentano una specie di rimescolamento delle coppie. E infatti questo pezzo è tutto giocato sulla, come dire, sulle coppie che si formano all'interno del sogno di una notte in mezz'estate e sulle tensioni che si creano fra di loro: Titania e Bottom, Elena e Demetrio, Ermia e Lisandro. Queste tre coppie più il personaggio di Puck sono tutte rappresentate musicalmente. E sono Puck e ancora una volta Clark Terry col flicorno. Poi sentirete tre coppie di strumenti che si intrecciano: clarinetto e violino, Ray Nance che suonava sia la tromba sia il violino, clarinetto e violino, sax alto e trombone, sax alto, Russell è scritto con una S e una L sola, perdonate il refuso, Russell Prokop, sax alto e sax tenore. Queste tre coppie di strumenti più la tromba, il flicorno solista di Terry, sono il nocciolo del pezzo. Il pezzo, che adesso ascolteremo, ha una incredibile complessità di scrittura. Contrariamente ai pezzi di Ellington, è un pezzo profondamente contrappuntistico, alla Bach, per capirci. Cioè, le tre coppie di strumenti non solo dialogano fra di loro, quindi sono due voci, ma ogni coppia dialoga, ma le voci sono anche in dialogo fra di loro, quindi noi abbiamo di fatto sei strumenti che si intrecciano in maniera complessa. Tutto il pezzo è scritto e non ha una struttura tradizionale jazz. L'unico che improvvisa, chi è? È Puck, che svolazza sui personaggi divertendosi a rimescolare le carte, i loro amori e i loro destini. È un pezzo che, diciamo, a un primo ascolto non si attraversa facilmente perché è molto piacevole, molto swing, è molto divertente, ma in realtà ha una densità di scrittura che, perché bisogna seguire il gioco delle coppie degli strumenti. Billy Strayhorn qui traduce proprio il testo di Shakespeare davvero in un gioco musicale aderente alla poesia. Violino e clarinetto. Tutta l'orchestra. Yeah. successo incredibile. Ma la cosa più incredibile è che loro fecero una prima take con un finale lievemente diverso. Avete sentito questo squittio del flicorno alla fine? Che cos'è? È che dopo aver fatto la prima versione in cui questo squittio non c'è, qualcuno deve aver avuto, forse lo stesso Strayhorn, in studio, lì, un'idea. Visto che Strayhorn conosceva a memoria Shakespeare, gli dice a Clark Terry: ma perché alla fine non suoni una frase che viene atto terzo, scena 2, Puck che dice: oh signore, quanto sono sciocchi questi mortali. Dopo aver svolazzato su di loro, li prende in giro. E allora Clark Terry suona, come in uno dei sonetti, proprio le sillabe di questa frase. Lord, what fools these mortals be. Fantastico. Devo però avvisarvi di una cosa, che se uscite di qui e andate a comprare il CD, questo pezzo non c'è. La Sony ha fatto un errore colossale e ha messo nel CD la prima take, quella senza la citazione finale. Perché quella take che abbiamo ascoltato adesso, per un errore delle macchine della Columbia all'epoca, fu registrata solo in mono. Allora, per tenere tutto in stereo, hanno messo la take, quella senza la citazione, ma quella con la citazione è quella scelta da Ellington e Strayhorn. Quindi l'unico modo per ascoltare la versione con la citazione è andarsela a cercare magari su YouTube. Sappiate che se comprate il CD, voi non trovate questa versione che avete ascoltato. Questo è molto importante, perché è un errore grossolano fatto dal produttore Phil Sharp e dalla Columbia, dalla Sony, che non è ancora stato emendato, cioè non hanno ancora pubblicato un'edizione corretta del disco. Andiamo avanti. Siamo nell'ambito delle commedie. Ora c'è l'ultimo sonetto per Sister Kate. Chi è Sister Kate? Beh, è la protagonista della bisbetica domata, Caterina, sempre con questo humor ellingtoniano, la sorella Kate. Il personaggio che interpreta Caterina, curiosamente, non è un personaggio, non è uno strumento femminile, ma uno strumento maschile. È il trombone accompagnato da una sezione, diciamo da un coro maschile, un coro maschile che è la sezione di sax. E benché Caterina sia un personaggio scatenato, il carattere del pezzo è lamentoso, perché il trombone in realtà suona il wah wah dall'inizio alla fine in questo sonetto e evoca probabilmente la scena in cui Caterina viene maltrattata da Petruccio e quindi si lamenta del modo duro in cui Petruccio la tratta. A eseguire questa parte era uno dei grandi specialisti del wah wah dell'orchestra di Ellington, Quentin Jackson, grandissimo trombonista che poi collaborerà anche con Charles Mingus e che fa veramente parlare il trombone, un po' nella tradizione inventata da un altro grande trombonista di Ellington, Joe Tricky Sam Nanton, che era scomparso a metà degli anni 40 e diciamo l'eredità grandissima di Nanton fu presa da trombonisti come Quentin Jackson. Questa è Caterina che in 14 versi si lamenta. Quella in cerca del Moro, ho fatto un errore clamoroso. Ora come faccio a farvelo sentire? Avete un secondo di pazienza? Perché rimedio, scusatemi. Scusa, ma diciamo che è un errore, montato il pezzo sbagliato, no vabbè, succede, e anche per mostrarvi che a volte commetto degli errori così anche voi vi sentite umani come me. Ve lo faccio sentire un attimo da iTunes, ecco. Non ce ne importa niente, vi chiedo scusa. Lo risolviamo in un solo secondo, davvero. Tempi molto rapidi. Eccolo qui. Così potete anche dare un'occhiata alla mia libreria musicale. Valeva la pena di fare questa. Notate un piccolo dettaglio: Ellington fa queste introduzioni e apre e chiude il pezzo. Poi doveva succedere, grazie. Doveva succedere quello che doveva succedere. Allora chiudiamo iTunes. Ellington. Ellington, vi dicevo, apre e chiude il pezzo, spesso i sonetti, con lo stesso tipo di introduzione, cioè entra con delle note pianistiche e chiude con le stesse note. Questa è una, se volete, una, non solo il tentativo di Ellington di evitare quella seccante necessità di dover finire i pezzi, perché io lo finisco come ho cominciato, ma crea un effetto di simmetria che suona come una specie di sipario. E sono davvero delle piccole scenette teatrali. Il sipario si apre, Caterina si lamenta accompagnata da questo coro che la sostiene, e poi il pianoforte richiude il sipario. È una cosa che Ellington fa anche in brani non legati a Shakespeare, e quindi sappiamo che è una sua precisa strategia. Aggiungo un'altra cosa: notate quanta ispirazione c'è nel lavorare sul sonetto. Di nuovo, confrontatelo con quello di Cesare, che era altrettanto lento, no? Quello era astratto, questo è umano, intenso, lamentoso, blues quasi, no? Cantato. E non solo, ma se non lo sapete, voi non la sentite la struttura del sonetto. La struttura soggiacente, così rigida, così condizionante, viene completamente sciolta nel canto, nella melodia, nell'andamento armonico. Cioè, le frasi respirano in modo musicale, senza essere, come dire, senza farsi rendere schiave dalla struttura shakespeariana, che anzi è un elemento di ispirazione. Andiamo avanti e siamo ad una delle pagine più celebri della suite. Questo pezzo è anche più problematico, come vedremo, perché questo pezzo è anche diventato uno standard, cioè un pezzo che si suona nel repertorio jazz anche al di là del riferimento alla suite. Gli amanti delle stelle incrociate, il riferimento è a Romeo e Giulietta, evidentemente, e questo pezzo è considerato, proprio la quintessenza di questa suite. Nessuno poteva catturare meglio il sentimento amoroso di Romeo e Giulietta, in particolare di Giulietta, perché poi il personaggio principale che ascoltiamo è il sax contralto di Johnny Hodges, che era da poco ritornato a casa nella big band di Ellington, il solista più importante che lui abbia forse mai avuto. E nessuno ha mai catturato la sensualità e la passione amorosa, al tempo stesso intensa e sottilmente drammatica, più di Strayhorn in questo pezzo armonicamente complesso. Sentirete anche i tromboni che ogni tanto accompagnano il passo di Giulietta in questo pezzo. Noi prima l'ascoltiamo e poi facciamo insieme una riflessione. Thank you. brano mozzafiato, non si capisce se è stato più geniale Pillistrellon a concepire questa atmosfera con queste sue armonie particolarmente sofisticate, molto cromatiche, che si trovano più raramente in Ellington. Questo si sente con un pezzo di Strayhorn, o più Johnny Hodges, che ha saputo tradurre con questo relax, con questa, e però con questa tensione interna lirica, quello che in modo molto semplice Strayhorn gli ha scritto sul pentagramma. Però vi prego di seguirmi in questa riflessione, c'è qualcosa che non torna. Io non ho scritto il personaggio sullo schema, non c'è scritto Giulietta. Allora, si chiama, il titolo è al plurale, Gli amanti delle stelle incrociate. Dov'è Romeo? Nelle note di copertina Ellington ci vuol far credere che Romeo è il sax tenore di Paul Gonsalves che si intrasente oscuramente in un breve passaggio. Il titolo è al plurale, il solista è uno solo e chiaramente pensiamo tutti a Giulietta qui, no? Mi pare evidente, però la tragedia riguarda tutti e due i personaggi. Dov'è Romeo? Romeo non c'è perché il pezzo non è stato concepito per Romeo e Giulietta. Il pezzo è una ballad scritta da Johnny Hodges, da Billy Strayhorn, diversi mesi prima, con il titolo di Pretty Girl. Bella ragazza. Cioè, era una ballad straordinariamente bella, non pensata per questa suite. Ma quando andarono ad assemblarla per il disco e c'era poco tempo per finire tutti i brani, Ellington o Strayhorn decisero di prendere un pezzo che già esisteva, gli hanno cambiato il titolo e gli hanno detto questa è Romeo e Giulietta. L'idea è perfetta, perché oggi non riusciamo a immaginare questo pezzo staccato dalla passione di Giulietta. Ovviamente, ma vi fa riflettere come nel rapporto tra la musica e la letteratura il condizionamento della parola è decisivo per attribuire il senso a quello che ascoltiamo. Avrei potuto farvi sentire nella prossima lezione di jazz, adesso vi faccio sentire un pezzo di Billy Strayhorn che si chiama Pretty Girl. E uno dice, che bellissimo, sensuale, pretty girl, carina, eccetera. Oppure vi dico, sapete, questo pezzo è dedicato a Giulietta. Allora uno pensa alla tragedia, Romeo e Giulietta, all'amore impossibile, alle difficoltà, eccetera, e tutto assume un altro senso, la stessa identica musica. Ellington e Strayhorn giocano anche su questo, ma questo lo fa qualsiasi musicista. Non è un gioco scorretto, attenzione, vorrei che fosse chiaro, perché questo lo fa qualsiasi musicista. L'idea di pensare che la musica sia, come ci hanno fatto credere certi critici romantici, del Novecento, sia un'entità astratta che tanto più astratta dal mondo, tanto meno si fa influenzare dal mondo, tanto più è grande, beh, questa è un'idea fasulla, perché è contraddetta quotidianamente dalla nostra esperienza. La musica si mescola con il senso della vita e delle cose che facciamo e che diciamo sulla musica, e vive anche dei sensi che noi, dei significati che noi gli attribuiamo, a prescindere o meno da quello che vogliono i compositori, o forse anche con la complicità, come in questo caso, dei compositori stessi. E visto che le acque si stanno intorbidendo, diciamo così, passiamo alla pazzia. La pazzia nella testa dei grandi. Avete già capito di cosa parliamo? Di chi parliamo? Parliamo del personaggio finto pazzo per eccellenza, e cioè Hamlet, il principe di Danimarca, e che suggerisce, torniamo alla firma di Duke Ellington dopo aver lasciato Billy Strayhorn, suggerisce una delle pagine più sperimentali e più folli veramente del pezzo, del disco. Ellington decide di scrivere un pezzo in cui all'inizio tutto sembra normale e poi invece il pezzo comincia a prendere delle direzioni inaspettate. Non c'è bisogno che vi dica dei dettagli, lo capirete da voi, lo farò sentire non appena si smette il cellulare, e a un certo punto addirittura si cominciano a sovrapporre le cose normali e le cose folli. In particolare sentirete c'è una parte per tre trombe molto molto eccentrica. La follia presunta di Amleto è incarnata in particolare da un solista che era la prima tromba dell'orchestra, Cat Anderson, che era specializzato in incredibili sovracuti. E quindi i sovracuti sono il momento in cui, come sentirete nella tromba, la realtà e la fantasia, diciamo così, collassano. E questa è la fine che fa la psiche di Amleto, secondo Ellington. Ci abbiamo verso la fine, l'undicesimo brano. Non abbiamo ancora parlato di sesso, quindi preparatevi. Anche se è un sesso, come suggerisce il titolo, a metà divertimento. Non so se il titolo l'ha scelto Billy Strayhorn, perché sembra un titolo molto ellingtoniano, cioè mezzo divertimento, half the fun. Il compositore è Billy Strayhorn. Nel disco il brano viene attribuito, diciamo, come fonte ad Antonio e Cleopatra, ma in realtà, come sentirete, il personaggio intorno a cui ruota tutto è appunto Cleopatra. In realtà anche questo pezzo è un pezzo che preesisteva. Anzi, fu, se andiamo a rivedere lo schema che vi feci vedere cronologico un'oretta fa, fu registrato, questo brano, nell'autunno del 56, già del 56, quindi molti mesi prima che la suite cominciasse ad essere perfino concepita, con il titolo Lately. Era un pezzo di Billy Strayhorn, è come Pretty Girl, che esisteva lì, negli archivi della Columbia non era stato ancora pubblicato. Di nuovo, avendo fretta, dovendo completare la suite, senza cambiare una nota, cambiano il titolo e mettono la suite, il pezzo dentro la suite, dedicandolo a Cleopatra. È molto bello quello che nelle note di copertina del CD qualcuno riporta, le indicazioni che, non ricordo più se Ellington o Strayhorn diedero al batterista, che non sapeva bene che atmosfera creare, perché Ellington e Strayhorn scrivevano le partiture per tutta l'orchestra, tranne che per il pianoforte, perché diceva Ellington: conosco il pianista dell'orchestra. E quindi il bassista, a cui venivano date delle indicazioni verbali, e il batterista, idem, indicazioni verbali. Quindi non c'era il tipo di ritmo che sentirete, è particolarissimo. Ellington gli disse, visto che era un narratore, aggiungo, Ellington da ragazzo avrebbe voluto fare il pittore, quindi c'è anche questa componente coloristica, anche se il pezzo qui è di Strayhorn. Gli dice a Sam Woodyard, il batterista, immagina di stare sul Nilo, immagina una barca sul Nilo, immagina degli schiavi che muovono delle palme grosse per fare aria, e immagina Antonio e Cleopatra, in particolare Cleopatra, questa donna bellissima, adagiata sensualmente su questa barca che è lì a aspettare probabilmente Antonio. Notate che la descrizione riguarda, come dire, di nuovo torniamo al problema di prima, riguarda un pezzo che era stato scritto con tutt'altra ispirazione, e però funziona. Ellington scrive un'altra delle sue cose enigmatiche sulle note di copertina e dice, a proposito di Antonio Cleopatra, la teoria generalmente accettata è che l'atmosfera era specifica. Per la precisione dice, the mood was specific, il mood, l'atmosfera, lo stato d'animo. Che vuol dire? Secondo me è un'elegante e velata allusione al sesso, cioè che questi due si accoppiavano, diciamo così. Quindi, e mi piace che la dice, la prende loro dalla teoria generalmente accettata, come se fosse un accademico, e che l'atmosfera era specifica, era quella cosa lì. Il pezzo è uno dei più visionari della suite ed è uno dei capolavori sommi di Billy Strayhorn e dell'intera produzione lintoniana, a mio avviso. E di recente, grazie tra l'altro a Franco D'Andrea, che mi pare di capire sarà qui la settimana prossima all'Auditorium, è diventato un pezzo che si comincia a suonare in giro, perché non è diventato uno standard, ma D'Andrea l'ha recuperato e lo suona spesso. È un pezzo dai colori cangianti, e sentite come Sam Woodyard ha tradotto le indicazioni verbali di Ellington con questo andamento ritmico incredibilmente sensuale. Ah, il solista, dimenticavo che si sente brevemente, e Johnny Hodges, ovviamente nella parte di Cleopatra. Beh. Niente, non c'è secco. Ho sbagliato anche qui pezzo, ma io ho pronto. Il bello che dovete sapere è che io stamattina l'ho ricontrollata. Segno che ho dormito troppo stanotte e mi sono rilassato. Mi chiedo scusa. L'ho pure ricontrollata. Cioè, assurdo. Vabbè, vi chiedo scusa di nuovo, ma lo rimediamo immediatamente. Per fortuna ho... Il titolo originale era Lately, eccolo qui. Una banera. Thank you. Lascia senza fiato. È veramente un pezzo incredibile. Notate che viene fuori, Strayhorn è in grado di creare un suono della big band jazz che non suona come una big band jazz, pieno di riflessi, di luci, di trasparenze. È veramente qualcosa di policromo, e, senza contare questo bellissimo accompagnamento tutt'altro che convenzionale della batteria di Sam Woodyard. Quindi qui vedete un misto di un'ispirazione che non ha niente a che fare con Shakespeare, perché il brano inizialmente non fu concepito per la suite, ma una descrizione verbale che aiuta i musicisti ad entrare in un mood, non specifico come lo intende Ellington, ma in uno stato d'animo, in un'atmosfera che crea poi il colore giusto per evocare quell'atmosfera che a parole si vuole evocare, cioè quella di Antonio e Cleopatra. Siamo all'ultimo episodio della suite, sperando che l'ascolto sia quello giusto, ormai non mi fido più di me stesso. Qui vi devo spiegare meglio di che si tratta. Circolo delle quarte. Cosa vuol dire circolo delle quarte? Allora, è un fatto tecnico musicale. Ellington pensò di fare l'ultimo, di dedicare l'ultimo brano, brano numero 12 ovviamente, non 10, ai quattro generi shakespeariani della letteratura shakespeariana, cioè la tragedia, la commedia, il dramma storico, poi qualcuno ci mette le commedie sentimentali, Ellington dal vivo invece parlava dei sonetti. Per lui erano i tre grandi campi della letteratura shakespeariana. Allora, vi ricordo che all'inizio abbiamo parlato, no, di una dedica a Shakespeare. Ecco, l'ultimo pezzo cerca di essere la sintesi di tutti i generi musicali shakespeariani. In realtà, da un punto di vista musicale, è un pezzo abbastanza semplice. C'è un pezzo molto rapido, velocissimo e breve, in cui domina un sax tenore solista che attraversa tutto il pezzo molto rapidamente. Ma dove sta l'idea che connette l'idea dei quattro generi con la musica? È che il pezzo modula continuamente, si dice tecnicamente, per quarte. Vi spiego. Cioè, se io sono nella tonalità di Do e voglio andare in un'altra tonalità a quattro note sopra, faccio Do, Re, Mi e Fa. Quindi faccio l'accordo di Do, poi faccio l'accordo di Fa, poi vado quattro note sopra, Fa, Sol, La, Si bemolle, e faccio Si bemolle. Poi quattro note sopra, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle. Si chiama circolo delle quarte perché può andare nel senso delle quarte o delle quinte, ma insomma questo è un dettaglio secondario, e si rappresenta proprio come un cerchio, con le note messe intorno al cerchio. Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, Re bemolle. È proprio un cerchio. Allora, l'idea di saltare ogni quattro note, di far saltare gli accordi ogni quattro note, ha a che fare con l'idea dei quattro generi shakespeariani. Quindi è un pezzo vorticoso che fa il circolo delle tonalità per quarte, che viene, le tonalità sono 12, il brano dura poco meno di 2 minuti, quindi queste 12 tonalità vengono ripercorse più volte in questo circolo molto rapido, sul quale improvvisa il sax tenore di Paul Gonzalez. E guarda. Thank you. quando vi dicevo che Ellington con i finali non ci sapeva fare, vi siete resi conto. Si capisce che è un pezzo frettoloso, scritto, tra l'altro fu scritto dopo la prima alla, alla Town Hall, perché Ellington non aveva ancora scritto il finale giusto, ed è un non finale in effetti, con questo gioco delle quarte, senza avere, come dire, il carattere conclusivo che uno si aspetterebbe da, dopo un percorso così, così ampio e così complesso. Registrata la suite, Ellington la suonerà dal vivo non più di 2 o 3 volte per intero. Una di queste occasioni sarà nel settembre, vi ricordo, il 5 settembre 1956, quando vanno finalmente, tornano a Stratford nell'Ontario e davanti a un pubblico entusiasta eseguono per intero la suite che gli era stata commissionata un anno prima. In seguito Ellington ha registrato, ha eseguito dal vivo degli estratti della suite. Questo è interessante perché è chiaro che, come avete visto, c'è una specie di progressione, no? Passando dai sonetti. Non è facile identificare la logica che c'è nella successione dei brani, ma si capisce che c'è una logica. L'alternanza di pezzi rapidi, lenti, di colori chiari, scuri. Il Lady Mac più, come dire, arioso, che è preceduto invece dai sonetti. Half the Fun, Antonio e Cleopatra, messo come penultimo pezzo per rendere questa atmosfera sensuale. Romeo e Giulietta incastonato poco dopo la metà della suite. Insomma, si capisce che c'è una cura, un'attenzione narrativa nella successione dei brani. Quando Ellington andrà a suonare dal vivo i pezzi, ne suonerà solamente un estratto, ma anche lì starà molto attento a scegliere i pezzi giusti in modo da creare una specie di riassunto, diciamo così, della suite. Il successo della suite fu tale che sempre a Stratford, anni dopo, nel 1964, commissionarono a Ellington le musiche per il Timone d'Atene, musiche di scena. Però attenzione, qui la situazione è un po' diversa, 63 scusate, la situazione è un po' diversa, perché? Perché queste sono musiche di scena, cioè chi assistette alla messa in scena, assistette al Timone d'Atene rappresentato per intero e all'orchestra che suonava le musiche tra una scena e l'altra o accompagnando le scene. Quindi non è la traduzione musicale del Timone d'Atene, ma sono le cosiddette musiche di scena, cioè musiche d'accompagnamento alla esecuzione scenica dell'opera. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che ieri avete avuto qui all'auditorium ospite la Lydian Sound Orchestra di Riccardo Brazzale, che in questo momento ci fa concorrenza su Radio 3 perché è ai concerti del Quirinale. Ieri hanno registrato anche un disco qui e Riccardo Brazzale con la Lydian Sound Orchestra ha eseguito, non è colui che le ha ricostruite, ma ha dato una nuova versione delle musiche di Ellington del Timone di Atene. Io non lo sapevo che era qui, quindi c'è questa, cioè abbiamo fatto questo fine settimana anche con Brazzale nel nome di Ellington. Vi ricordo anche che Ellington ha continuamente avuto rapporti con il teatro, non ha mai scritto un'opera lirica, non ha mai scritto neanche un musical vero e proprio, però ha scritto diversi lavori per il teatro molto importanti. Ma poi alla fine quello che gli interessava, e come avrete capito anche ascoltando Such Sweet Thunder, era creare una narrazione teatrale solo attraverso la musica. Per esempio, avrebbe potuto avere buon gioco a introdurre, ci avete pensato, a introdurre una cantante o un cantante che magari ti canta un testo di Shakespeare. Chi è che non l'avrebbe fatto? Sarebbe stata una soluzione semplice. E invece no, Ellington punta tutto alla forza narrativa della forma musicale e del colore musicale, e per fare questo deve avere in testa una cosa che per lui era normale: non obbedire alle regole tradizionali del jazz o della musica e crearsi la sua propria drammaturgia senza alcuna soggezione nei confronti di Shakespeare, come abbiamo visto. Questa è la lezione che rende, al di là della qualità eccellente della musica, rende sopraffino questo disco. È una costante lezione di libertà creativa. E per farlo, io sospetto, come avrebbe detto Ellington di Lady Macbeth, che lui avesse del ragtime dentro di sé. Grazie.